Fra care di legnate forsennate i cuscini del divano. Per sfogare a scoppio ritardato le angherie di un tattarino. Non è per le articolazioni lasse o un improvviso blocco. La verità è che ti cachi addosso, che sei un vigliacco. Non è chissà poi quale gran sorpresa che ti risvegli in barella. Invoca ordine, famiglia e chiesa, prediliga il manganello. Tu che a dir tua parole te la senti, faccia a faccia con la truppa. Nemmeno il tempo di contarti i denti. Ma noi che ti sappiamo uno stratega, non crediamo a questa svista. Di raddrizzare questa brutta piega, presagibi la batosta. Questione si fa nebulosa, non ce la racconti giusta. Scommessa che hai abbracciato la paura per una camicetta che si scosta, per lei che lotta e se non lotta cura ci pasti coppa apposta e con le ossa rotte. Gli ematomi beatamente te la ridi perché pizzi e perizomi finalmente le indovini. Anche l'inferno è una goduria, se per andarci obbligatoria questa infermeria. Con i cuori sulla faccia e il sangue che ti spruzza giù dal naso. Fraccato di legnate, ma comunque col durello pronto a caso. Più che sospetto è quanto mai sgamato, se un pochino si strofina. Somministrarti l'endovena, si rende un tratto conto della scena, tu inebetito dal suo fondo schiena, prendendo una testata.